al momento la situazione è sotto controllo. Abbiamo avuto delle piogge ieri sera e stanotte che hanno fatto defluire ancora un po' di acqua fuori dall'argine che si è rotto, e quindi diciamo c'è un nuovo parziale riallagamento delle stesse zone che ieri stavano già cominciando ad asciugarsi. Quindi alcuni cittadini che purtroppo si erano incautamente riavvicinati alle loro case e non rientrati nelle loro case, stamattina hanno dovuto di nuovo uscire spontaneamente o anche essere portati via dai vigili del fuoco. Comunque la situazione complessivamente non desta particolari preoccupazioni. Stiamo aspettando che le condizioni meteo migliorino, come ci ha detto il centro meteo regionale, e a quel punto il vero perno della situazione è il momento in cui i mezzi riusciranno a raggiungere la rottura dell'argine dell'Idice e cominceranno a chiuderla. Fanno fatica perché si è verificato in un punto in campagna dove non ci sono strade, e quindi stanno costruendo una pista di cantiere proprio per far raggiungere con i camion, far raggiungere l'argine dell'Idice rotto con i camion. Insomma, sostanzialmente finché la situazione non migliora un po' è difficile anche riparare l'argine. Sì, è difficile riparare l'argine, e l'acqua sta continuando a uscire in maniera blanda, ma perché pur essendo basso il livello, l'argine è rotto, quindi immaginatesi un argine in cui c'è una falla, ecco, quindi l'acqua esce a livello zero praticamente. Quindi stiamo aspettando che i camion possano raggiungere l'argine e iniziare a ripararlo. Lei diceva che allagate sono le stesse zone colpite domenica, sì. Quindi il numero degli sfollati rimane uguale? Esattamente lo stesso, sì, circa 300 persone. Anche questa notte circa una ventina di cittadini hanno dormito presso il nostro centro di raccolta, al palazzetto dello sport. Sì, i numeri non sono cambiati. Come dicevo prima, alcuni cittadini hanno raggiunto ieri le loro case, quindi sono trovati poi nella condizione di dover riuscire questa mattina. Questa mattina in assemblea legislativa la regione ha fatto sapere di aver stanziato già 1.250.000 euro per la prima emergenza in attesa della richiesta dello stato di emergenza a livello governativo. Sono risorse che immagino a voi servano. Assolutamente sì, sono risorse che per la somma urgenza che rappresentano ci danno proprio la possibilità di iniziare a gestire questa emergenza. Io devo ringraziare la regione, a parte questo aspetto importantissimo economico, ma soprattutto lo voglio dire per il supporto logistico, la protezione civile regionale, i vigili del fuoco, insieme poi l'arma dei carabinieri, la nostra la polizia locale, però insomma i volontari, tutti veramente sono stati efficientissimi, per cui già da domenica, appena si è verificata la rottura, è arrivata la protezione civile. Devo dire che sabato, addirittura il giorno prima, c'era già stata la preallerta in prefettura, quindi insomma, per quello che posso dire, la macchina organizzativa, la macchina di protezione civile della regione ha funzionato e sta funzionando benissimo. È il secondo alluvione nell'arco di 9 mesi che il territorio a nord-est di Bologna subisce. Forse c'è qualche problema, bisogna pensare a qualche intervento strutturale? Ma sono due aspetti secondo me che vanno combinati. Uno è sicuramente le manutenzioni, gli interventi che sono necessari, ma che impiegano anche molte risorse. Purtroppo devo dire che ci sono sempre meno risorse, e aggiungo, sottolineo, sono aspetti che non toccano al comune direttamente, insomma sono aspetti che riguardano più gli enti sovracomunali, quindi la regione o lo Stato. In realtà l'altro problema grosso è che ormai ci sono condizioni meteorologiche veramente strane. Nel giro di 7-8 ore cade tantissima acqua, e questo è un altro elemento che porta a queste situazioni.